L'oncologia diventa green. Se ne parla in questi giorni a Cosenza, al 16° congresso nazionale del CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri. In linea con noi abbiamo il presidente, il dottor Roberto Labianca. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Gli oncologi italiani stanno cambiando paradigma e si profila una sorta di ripensamento delle cure oncologiche con la massima attenzione per l'impatto ambientale. Ci racconta che cos'è la Green Oncology? La Green Oncology significa che i primari di oncologia e più in generale l'oncologia italiana intende prendersi la responsabilità non solo di curare i pazienti come avviene tradizionalmente, ma anche di occuparsi di aspetti nella società e sull'ambiente per le cose che noi facciamo. Ad esempio, se noi riusciamo a fare una serie di esami, ma ridotti rispetto a quelli che facciamo di solito nel follow-up, nel tempo, nel seguire nel tempo i pazienti, diamo a loro meno esposizione, per esempio, ai raggi, e li facciamo muovere di meno, quindi abbiamo meno possibilità che questi spostamenti, che ovviamente di solito avvengono in automobili, inquinino l'ambiente. Se noi facciamo più terapie orali e meno terapie endovenose, anche questo riduce il trasporto dei pazienti, diminuisce il consumo di energia, diminuisce i rischi di incidenti da trasporto, diminuisce le ore di lavoro che il paziente o chi se ne fa carico deve affrontare. Se noi facciamo in modo che i farmaci che somministriamo diano meno tossicità, cioè siano ambientali, intendo, siano meno smaltiti, ma siano smaltiti in modo più attento e rigoroso e non vadano nell'ambiente, questo vuol dire rispettare maggiormente l'ambiente. Se noi usiamo meno carta, più informatizzazione, anche questo vuol dire meno inquinamento. Quindi questi sono solo alcuni degli esempi. Attraverso queste ed altre modalità credo che noi saremo in grado davvero di dare meno problemi all'ambiente in cui viviamo, quindi è una presa, diciamo, di responsabilità e di coscienza da parte nostra che poi può migliorare anche la coscienza di chi viene da noi, pazienti e familiari. Dottore, l'oncologia italiana è pronta per cambiare pagina, per andare in questa direzione? Ma io credo è un futuro che verrà? Ma detto le cose che io sto dicendo, ci sono delle evidenze scientifiche, quindi non vuol dire semplicemente stringere la cinghia, vuol dire applicare al meglio le evidenze scientifiche, utilizzare ciò che veramente serve, ridurre i possibili sprechi, quindi avere anche una sostenibilità, se vogliamo anche economica, non soltanto ambientale, e rispettare maggiormente l'ambiente. Pronti per partire? Lo siamo, dobbiamo fare un'opera di educazione al nostro interno importante, ma io sono certo che la volontà, la disponibilità sia molto forte. Dottore, come pensa accoglieranno i pazienti questo cambiamento? Io credo bene, devono, diciamo, superare il timore che questo voglia dire stare, diciamo, all'osso, al risparmio, devono capire che questo vuol dire migliorare l'utilizzazione delle risorse che abbiamo. Siamo in un'epoca, inutile dirlo, di crisi economica globale, per cui credo che venga accettato il concetto. Basta che il paziente abbia ovviamente la garanzia che i suoi problemi fondamentali di salute siano ben affrontati, in questo caso ovviamente senza tagli e senza sconti. Quindi anche il paziente dovrà essere informato e formato. Sì, questa operazione vuol dire che i pazienti devono sapere quello che stiamo facendo, devono sapere che il paziente è un alleato, anzi è il protagonista di questa vicenda, e siamo assolutamente pronti anche ad accogliere da parte loro, dei familiari, suggerimenti su come muoverci su questo terreno. Per evitare che il paziente si senta un po' lasciato solo. È esattamente quello che non vogliamo che succeda. Il paziente deve capire che in questo modo, in questo clima, se vogliamo, un po' più austero, però in realtà la sostanza rimane, anzi viene in qualche modo rafforzata. Quello che si cerca di evitare sono proprio quegli aspetti in realtà non utili e fonte poi di non rispetto verso la società e l'ambiente. Dottor Labianca, discuterete anche sui rischi consumistici della medicina difensiva. È un tema che è di grande attualità in questo periodo. Sì, è un tema globale e sappiamo bene che molte volte i medici sono indotti a fare esami o addirittura terapie non perché ne sono davvero convinti, ma perché temono che poi in qualche modo questo, se non viene fatto, sia oggetto di una rivendicazione di tipo legale. Un esempio solo, ogni anno in Italia si fanno 40 milioni di TAC, 40 milioni, vuol dire che ogni cittadino, due cittadini italiani su tre mediamente si fanno una TAC in generale. Ecco, questo credo che si potrebbe in buona parte ridurre. Un altro esame che si usa molto è la PET, spesso troppo. L'ASCO, che è la Società Americana di Oncologia, ci dice che in quei casi di certi tipi di tumore della mammella o della prostata, ad esempio, in cui il rischio di recidiva sia molto basso, è inutile fare la PET nel follow-up e forse neanche all'inizio della malattia. Quindi bisogna sapere dove l'esame serve. Certo, il rischio di un meccanismo difensivo esiste, ma se noi ci occupiamo bene anche degli aspetti medico-legali, come Cipomo fa, credo che possiamo convincere meglio i nostri colleghi. E su che cosa vi muoverete per così interrompere questo gatto che si morde la coda? Ma intanto pensiamo che quando qualcuno di noi, come può accadere ovviamente, può essere oggetto di un'azione legale, perché il paziente in perfetta buona fede può ritenere di aver qualcosa da rivendicare, però poi che ci sia negli esperti, nei periti che vengono chiamati, gente veramente esperta, perché troppe volte capita che parlando di oncologia poi magari il perito, quello diciamo unico, oppure il perito di parte sia magari un non oncologo, ecco, questo non va bene. Noi abbiamo uno stretto contatto anche con ambienti di magistratura e legali che ci possono aiutare a definire meglio chi deve occuparsi di queste cose. Grazie dottor Labianca per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, arrivederci.